Terzo anello, ad alta voce. Il gioco delle perle di vetro, di Hermann Hesse. Credo, rispose Plinio pensosamente, che anche oggi sei un tantino troppo cortese. Tu dici noi due, ma non eravamo in due a cercarci e a non saper trovarci. La ricerca e l'affetto erano soltanto dalla mia parte, e così pure la delusione e il dolore. Ora domando, che cosa è mutato nella tua vita dopo il nostro incontro? Nulla. Per me, invece, esso ha segnato un'incisione profonda e dolorosa, e perciò non posso partecipare al riso col quale tu te ne sbarazzi. È vero, disse Joseph. Allora il disagio nascosto e la tristezza che coprivi con la tua disinvoltura mi furono molesti e antipatici, poiché racchiudevano la pretesa alla mia compassione e solidarietà, in contrasto col tuo modo di fare. Contenevano, secondo me, un che di invadente ed infantile che poteva soltanto urtarmi. Sì, ti ripudiai per istinto, non già perché eri uomo di mondo, ma perché pretendevi di farti passare per Castalio. Quando poi, dopo tanti anni, sei riapparso, tutto ciò era scomparso in te. Avevi l'aspetto mondano, parlavi come uno di fuori e particolarmente estranea mi sembrò l'espressione di tristezza, di affanno e di infelicità sul tuo volto. Tuttavia ogni cosa, il tuo atteggiamento, le tue parole, persino la tua tristezza mi piacquero. Erano belli, adatti a te, degni di te. Nulla più mi disturbava. Potevo accettarti senza alcuna ripugnanza interiore. Non c'era più bisogno di eccessiva cortesia e perciò ti venni subito incontro da amico e mi sforzai di manifestarti il mio affetto. De signori, parve di nuovo triste e disse, talvolta ho l'impressione che non solo abbiamo due diversi modi di esprimerci, due linguaggi, ciascuno dei quali si può tradurre nell'altro soltanto per allusioni, ma che in tutto siamo esseri fondamentalmente diversi, che non ci potremo comprendere mai. Oltre a ciò, sto sempre a chiedermi chi rappresenti l'uomo autentico e intero, se voi o noi. E se in genere lo sia uno di noi due. Ci fu un tempo in cui alzavo gli occhi verso di voi, membri dell'ordine e giocatori di perle, con venerazione, con un senso di inferiorità e di invidia, come verso dei o superuomini, sempre sereni, sempre intenti al gioco e a godere la propria esistenza, inaccessibili a qualsiasi dolore. In altri momenti, invece, mi sembravate da compiangere o da disprezzare, come esseri castrati, mantenuti artificiosamente in una puerizia, fanciulleschi e ingenui nel vostro mondo da giardino d'infanzia, privo di passioni, ben cintato e sereno, dove ogni naso è pulito attentamente, ogni nocivo moto sentimentale o razionale, smorzato e represso, dove per tutta la vita si fanno giochi garbati, innocui, incruenti e, con terapia meditativa, si controlla, si devia e neutralizza tosto ogni impulso di vita che possa turbare, ogni grande sentimento, ogni vera passione, ogni sfogo del cuore. Senza preoccupazioni alimentari e senza doveri molesti, si fa una vita da fuchi e, per non annoiarsi, ci si dedica con zelo a codeste specializzazioni erudite. Si contano sillabe e lettere, si fa della musica, si gioca alle perle di vetro, mentre fuori, nella lordura del mondo, la povera gente affannata vive la vita reale e realmente lavora. Knecht l'aveva ascoltato con attenzione deferente e instancabile. Vedo dalle tue parole e sento dal loro tono che hai ancora verso di noi il cuore gonfio di odio e nello stesso tempo pieno di affetto disperato, pieno di invidia o di nostalgia. Siamo, dici, vigliacchi, fuchi o bambini che giocano in un giardino d'infanzia, ma talvolta hai visto in noi anche dei eternamente sereni. In ogni caso, credo di poter dedurre una cosa dalle tue parole. Della tua tristezza, della tua infelicità, o comunque la si voglia chiamare, non dovrebbe essere colpevole la Castalia. Altra deve essere l'origine. Per quanto posso capire fin da ora, hai con noi e con la Castalia, e quindi con la tua giovinezza e col tempo di scuola, un rapporto falso, sottomesso e sentimentale. Hai l'anima scissa in due parti, la mondana e la Castalia, e ti affanni troppo per cose che sono fuori della tua responsabilità. Ma può anche darsi che tu prenda troppo alla leggera altre cose, delle quali sei responsabile. Hai detto, osservò Plinio, di possedere i mezzi per rendermi più felice e sereno. Ma non chiedi neanche se ciò corrisponda a un mio desiderio. Oh, via, fece Joseph ridendo. Se possiamo rendere qualcuno più felice e sereno, dovremmo farlo in ogni caso, ce lo chieda o no. D'altronde, come potresti non desiderarlo? Sei qui appunto per questo. Per questo ci ritroviamo l'uno di fronte all'altro. Per questo sei ritornato da noi. E ti dico che questa volta sei venuto al momento giusto, quando anch'io sentivo la grande nostalgia di una chiamata dal vostro mondo, di una porta che si aprisse. Ma di ciò parleremo la prossima volta. Ti prego, regalami ancora un solo quarto d'ora. Si alzò, si affacciò alla finestra, con una mano indicò il cielo e disse: «Guarda un po' questo paesaggio di nubi con pochi brandelli di cielo. A prima vista si direbbe che la profondità sia dove più è buio, ma tosto si avverte che quel buio è dato dalle nuvole e che lo spazio celeste, con la sua profondità, incomincia soltanto ai margini, nei fiordi di queste montagne di nubi, e sprofonda nell'infinito, in cui stanno gli astri solenni e, per noi uomini, supremi simboli di chiarezza e di ordine. La profondità del mondo e dei suoi misteri non è dove stanno le nuvole e il buio, ma nel cielo chiaro e sereno. Prima di coricarti, guarda ancora un poco questi golfi e bracci di mare con le innumerevoli stelle e non respingere i pensieri e i sogni che possono venire a visitarti». Con parole simili, ora ricordava, era stato invitato una volta, in tempi immemorabili, nel sereno inizio della sua vita di alunno valsellese, alle prime esercitazioni meditative. «Permettimi ancora una parola», riprese a bassa voce il maestro del gioco delle perle. «Vorrei parlarti ancora della serenità, sia delle stelle, sia dello spirito, sia di noi castali. Per me, e per tanti altri, la meta suprema e più nobile consiste nel raggiungere questa serenità. La trovi anche in alcuni padri che stanno a capo dell'ordine. Non è frivolezza, né compiacimento di sé, ma suprema conoscenza e supremo amore. È affermazione di ogni realtà. È veglia sull'orlo di tutti gli abissi. È una virtù dei santi e dei cavalieri. È indistruttibile e non fa che accrescersi con l'età e con l'approssimarsi della morte. È il segreto del bello. È la vera e propria sostanza di ogni arte. Il poeta, che col ritmo danzante dei versi esalta la grandezza e l'orrore della vita, e il musicista, che li fa risuonare come pura presenza, sono coloro che portano la luce, che aumentano la gioia e la chiarità nel mondo, anche se prima ci conducono attraverso lacrime e tensioni dolorose. Questa specie di serenità mi fu cara da quando, scolaro e studente, incominciai a intuirla e a comprenderla, e mai più la abbandonerò, neanche nella sventura e nel dolore. Ora andiamo a dormire. Domani all'alba partirai. Ritorna presto a parlarmi ancora di te. Anch'io ti dirò molte cose. Apprenderai che anche a Valsel e nella vita di un magister ci sono delusioni, perplessità e persino tormenti disperati. Adesso però vorrei che tu portassi con te un po' di musica. La vista del cielo stellato e un brano di musica prima di coricarsi valgono più di tutti i tuoi sonniferi. Sedette ed eseguì in pianissimo un tempo di quella sonata di Purcell che era un pezzo preferito di padre Jacobus. Come gocce di luce dorate, le note cadevano nel silenzio, tanto sommesse che si riusciva a udire ancora il canto dell'antica fontana nel cortile. Dolci e severe, moderate e soavi, si incontravano e intrecciavano le voci di quella musica leggiadra. Serenamente attraversavano con la loro fervida danza il nulla del tempo fugace. Rendevano vasti come l'universo, lo spazio e l'ora notturna. E quando Joseph Knecht congedò l'ospite, questi aveva il volto mutato e chiaro e gli occhi gonfi di pianto. Thank you. quando Knecht aveva saputo rompere il ghiaccio, tra lui ed i signori incominciò uno scambio vivace con reciproco beneficio. Plinio, che da molti anni era vissuto in una rassegnata malinconia, dovette dare ragione all'amico. Era stato in verità il desiderio di guarigione, di chiarezza, di serenità Castalia a riportarlo nella provincia pedagogica. Ora ci veniva di frequente, anche senza commissioni e affari, mentre Tegularius lo osservava con gelosa diffidenza. E ben presto Knecht seppe di lui e della sua vita tutto quanto gli occorreva. L'esistenza di dei signori non era stata così straordinaria o complicata come Knecht aveva supposto dopo le prime rivelazioni. In gioventù Plinio aveva subito la nota delusione e umiliazione. Non era riuscito nel suo intento di far da mediatore e conciliatore fra il mondo e la Castalia, ma si era tratto in disparte, solitario e acido, senza saper compiere la sintesi degli elementi mondani e castali della sua personalità. Anzitutto, fin da studente, si mise in contrasto inconciliabile con la famiglia, soprattutto con suo padre. Questi, pur non essendo un vero capo politico, era stato, come tutti i dei signori, una colonna del partito conservatore e della politica legittimista, nemico di ogni innovazione, avversario di tutte le pretese dei diseredati a diritti e partecipazioni, diffidente verso la gente senza nome e senza un certo livello sociale, ligio e pronto a sacrificarsi per l'ordine vigente, per tutto quanto gli paresse legittimo e consacrato. Plinio deluse, irritò e amareggiò quest'uomo, aggregandosi da studente a un partito modernista di opposizione. Si era costituito allora il settore giovanile di sinistra ad un vecchio partito liberale borghese, capeggiato da Vera Guth, un pubblicista deputato e demagogo di grande, abbagliante efficacia, un amico del popolo ed eroe della libertà, pieno di fuoco, talvolta anche commosso ed innamorato di sé, i cui inviti alla gioventù accademica in pubbliche conferenze nella città universitaria non rimasero senza seguito e, tra altri seguaci entusiasti, gli conquistarono anche il giovane dei signori. Questi fu trascinato dai discorsi di Vera Guth, del quale amava il tono patetico, il coraggio aggressivo, la parola spiritosa e la bella persona, e si iscrisse a un gruppo di studenti seguaci del focoso oratore. Quando lo seppe, il padre di Plinio partì subito per raggiungere il figlio e gli ordinò di riparare ai suoi trascorsi e di staccarsi da Vera Guth e dal suo partito. I due litigarono, si accanirono, si offesero sempre più, finché il vecchio, come scorgendo in uno specchio il proprio viso deformato dall'ira, tacque improvvisamente e si allontanò umiliato. Da quel momento, i rapporti schietti e familiari fra Plinio e i suoi non si ristabilirono più, perché non solo egli rimase attaccato al suo gruppo, al neoliberalismo, ma prima ancora di terminare gli studi, divenne un diretto discepolo, aiutante e collaboratore di Vera Guth e, pochi anni dopo, suo genero. Egli incominciò a dubitare se fosse stato davvero soltanto il senso della verità e del diritto a fare di lui un seguace di Vera Guth, o se invece la capacità oratoria e tribunizia del capo, il suo fascino e l'abilità nel presentarsi in pubblico, lo squillo sonoro della voce, la stupenda risata virile, l'intelligenza e la bellezza di sua figlia, non vi avessero avuto parte, almeno per metà. È vero che il suo matrimonio non era grossolanamente sbagliato e infelice, ma era pur sempre irto di tensioni, complicazioni e resistenze. Era forse quanto egli aveva di meglio, ma non gli dava il riposo, la gioia, l'innocenza, la coscienza tranquilla di cui aveva tanto bisogno. Richiedeva molta circospezione e fermezza. Gli costava molta fatica. E anche Tito, il suo bello e intelligente figlioletto, divenne assai presto un motivo di battaglia e di accorgimenti diplomatici, di conquista e di gelosia, finché, troppo amato e viziato da entrambi i genitori, cadde sempre più in potere della madre e ne divenne il difensore. Questo fu l'ultimo e il più sentito dolore, la più amara perdita nella vita di Plinio, non che ne rimanesse stroncato. Trovò infatti e conservò una sua linea dignitosa ma severa, grave e malinconica. Thank you. Si dovette allo stile del suo metodo terapeutico e pedagogico se Knecht non solo conquistò quel paziente con la sua grande sincerità, ma seppe anche convincerlo che gli era possibile dare il suo aiuto a lui, Magister, e lo indusse a farlo davvero. De Signori, infatti, poteva essergli variamente utile, non tanto nel risolvere il problema principale, ma specialmente nel soddisfare la sua curiosità e la sete di apprendere mille particolari della vita mondana. Non sappiamo perché Knecht si sia sobbarcato alla non facile impresa di insegnare al suo malinconico amico a sorridere e a ridere di nuovo, né sappiamo se vi abbia avuto parte la considerazione che l'altro poteva rendergli a sua volta un servigio. De Signori, cioè colui che doveva saperlo più di chiunque altro, non lo credette mai. In seguito ebbe a dire, fin dal nostro primo colloquio, Joseph mi fece capire che aveva aspettato, anzi si era augurato, la mia comparsa, e a mano mi iniziò il suo disegno di lasciare la carica e di abbandonare la provincia. E sempre lasciava intendere quanto facesse assegnamento sul mio consiglio, la mia assistenza e discrezione, poiché a sentir lui non possedeva né amici né esperienze nel mondo di fuori. Confesso che queste parole, a me grate, contribuivano non poco a far sì che gli dessi la mia piena fiducia e mi consegnassi a lui interamente. Gli credevo in tutto e per tutto. È certo però che allora mi prese a cuore da amico, da grande medico e guida. Non mi lasciò più e infine mi destò e mi guarì fin dove era possibile. E fu cosa strana, ma pienamente consona al suo carattere. Mentre fingeva di accettare il mio aiuto per liberarsi dalla carica e mentre ascoltava con calma le mie critiche spesso aspre e ingenue, mi ricondusse alla meditazione, mi educò e trasformò con la musica e la concentrazione, con la serenità e col coraggio, e fece di me che, nonostante la nostalgia Castalia, ero anti-Castalio, un vostro pari, trasformando il mio infelice amore per voi in affetto fecondo. Correva l'ottavo anno del suo ufficio di magister quando, per la prima volta, accettò l'invito così spesso rivoltogli dall'amico e andò a trovarlo a casa sua, nella capitale. Trovò la moderna casa che l'amico aveva scambiato con l'antica dimora cittadina dei De Signori, governata da una donna imponente e intelligentissima, la quale però era a sua volta dominata da un figlio carino, insolente e piuttosto maleducato, che pareva il centro di tutto, e da sua madre doveva aver imparato l'atteggiamento prepotente e un po' umiliante nei riguardi del padre. Tutta la casa, poi, era fredda e diffidente verso tutto ciò che sapeva di Castalia. Ma non per molto la madre e il figlio resistettero alla personalità del magister, il cui ufficio si presentava a loro avvolto in un'aura di mistero, di santità e leggenda. Fu un convegno faticoso, privo di schiettezza, gravido di istinti repressi, timoroso di turbamenti, pieno di situazioni tese, e lo stile del comportamento e dei discorsi, come quello di tutta la casa, era un po' troppo curato e voluto, quasi non si potesse erigere abbastanza solida, compatta e sicura la barricata contro eventuali assalti. Knecht fece anche un'altra osservazione. Gran parte della riconquistata serenità era scomparsa dalla faccia di Plinio che, mentre a Valzel o presso la direzione dell'ordine a Irsland aveva perduto quasi interamente la sua gravità e mestizia, qui, a casa sua, stava di nuovo nell'ombra e suscitava la critica e la compassione. La casa era bella e faceva un'impressione di ricchezza e di agio persino eccessiva. Ogni stanza era sapientemente arredata, intonata a una piacevole combinazione di due o tre tinte, con qualche pezzo artistico di valore qua e là. Knecht girava intorno lo sguardo compiaciuto, ma quella bellezza finì col sembrargli troppo perfetta e calcolata, senza un suo divenire, un suo rinnovamento, sicché anche lo splendore delle stanze e degli oggetti presentava quasi un senso di scongiuro, un gesto implorante, e quelle camere, quei quadri, i vasi e i fiori racchiudevano e accompagnavano una vita desiderosa di armonia e beltà,